tere ki jaye le ko tero se wa ama no jo ja mu de ka mu le ya le ya le he le he le se pa se ja de ne ta gi ni mo che la le che la la don o ga yong che la don Yeah, yeah. Let go to